Perché su 5 so? Ma non va nessuno proprio, Sarebbe, penso di no. Allora sta parlando da casa, prova a vedere come... Prova l'antenna a vedere come ti sento. Vabbè, c'è la quale circolo, là. Fermo qua al circolo, poi stanotte la provo. Ah, stanotte lo proverò, se sei al circolo adesso. E adesso mi fermo un po' al circolo e vediamo un po'. Va bene, ok.